Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Due ore di confronto e dialogo con i ragazzi, dove avevamo parlato di alternanza scuola-lavoro, avevamo parlato del rapporto che quella scuola ha con il suo territorio e con le imprese, abbiamo parlato delle esperienze che questi ragazzi hanno fatto e del quanto valga, insieme al sapere, che è ovviamente essenziale, anche l'essere, cioè le cose che le persone fanno, il volontariato, il servizio civile, tutte le cose che si fanno. Vale molto il sapere e vale molto l'essere, vale molto studiare, imparare, conoscere e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività. Così, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro Poletti ha cercato un po' di riparare alla gaffe, la nuova gaffe che ha fatto ieri a proposito di giovani e lavoro, dicendo ad alcuni studenti, fra le altre cose, lui dice che è stato estrapolato da un contesto questa frase, questo pezzo di discorso, aveva detto è meglio, piuttosto che mandare il curricula, è meglio andare a giocare a calcetto, quindi intessere relazioni. Oggi quindi bufera su di lui, un po' tutte le opposizioni ne hanno chieste le dimissioni, lui ha corretto un po' il tiro dicendo ma no, dicevo certo, è importante la meritocrazia, i titoli, gli studi, eccetera, e poi anche un po' di relazioni sociali. Ne parleremo e poi ci occuperemo di qualcosa decisamente di meno gustoso, sul quale non si può fare nemmeno un sorriso, anzi bisogna veramente rimanere sgomenti, perché nell'arco di poche ore c'è stato un femminicidio, un tentato femminicidio, proprio nel giorno in cui tra l'altro l'Istat presentava il suo rapporto sulla violenza contro le donne e la sicurezza delle donne nel nostro paese, con dati davvero sconcertanti. Tutto in una sorta di indifferenza generale, anche sociale, tanto è vero che spesso queste notizie finiscono o diciamo molto in basso nelle scalette, nei notiziari, oppure non vengono dette per nulla. Ce ne occuperemo e poi parleremo anche degli sviluppi dell'inchiesta su Alatri, del ventenne che è stato massacrato a morte vicino Frosinone. C'è di buono la nazionale, per alleggerirci un po', in campo in un amichevole contro l'Olanda, per il momento 1-1, e per la prima volta c'è Donnarumma come portiere. Quindi tantissime cose di cui parlare anche questa sera con gli ospiti e con voi. Pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre interazioni, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è sempre quello 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi prima di andare ad approfondire tutti questi temi, come sempre vi racconto in sintesi la giornata. La mattanza delle donne a distanza di poche ore a Vercelli, un uomo sperona l'auto dell'ex moglie e poi la insegue a piedi e la colpisce più volte con un coltello. Lei è gravissima, e a Pinerolo un uomo di 64 anni accoltella la moglie cinquantenne uccidendola. E il rapporto dell'Istat presentato oggi parla di 8,3 milioni di donne in Italia sottomesse psicologicamente ai partner. Una su tre ha subito vari tipi di violenze, una su cinque ha subito violenza sessuale. Brexit, domani l'annuncio ufficiale del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. La prima ministra Theresa May commenta: è un momento storico. Bufera sul ministro Poletti dopo la gaffe sul lavoro e il calcetto, le opposizioni ne chiedono le dimissioni, e in Senato Augusto Minzolini di Forza Italia presenta la lettera di dimissioni dopo essere stato salvato nei giorni scorsi dalla decadenza in virtù della legge Severino. Genova, l'ex candidata dei 5 Stelle silurata da Grillo si rivolge al Tribunale Civile. Immigrazione, i paesi del gruppo Visegrad capeggiati da Polonia dicono no al ricatto dell'Unione Europea, e Vienna chiede comprensione sulla sua intenzione di disapplicare il piano di ricollocamento. Dura replica della Commissione Europea. L'omicidio di Alatri, fermati due fratelli per il massacro di Emanuele Morganti, una violenza lenta, 15 minuti di orrore davanti a tutti, dicono gli inquirenti. Puglia, scontri tra polizia e manifestanti a Melendugno per l'espianto di ulivi al cantiere del gasdotto. Aborto, il Comitato per i diritti umani dell'ONU si dice preoccupato per la difficoltà in Italia di accesso agli aborti legali a causa del numero di medici obiettori. Stati Uniti, Trump firma il decreto per eliminare le norme di Obama sul clima, così creeremo posti di lavoro, dice, rilancio del carbone per aumentare l'indipendenza energetica degli Stati Uniti. E per il calcio, in campo l'amichevole tra Italia e Olanda con in porta Donnarumma 1-1. 1-1, stavo dicendo, per quanto riguarda il risultato, ve lo ribadisco, ma partiamo dall'inarrestabile scia di violenze maschili contro le donne. Oggi Nell'arco di poche ore, a Borgo Vercelli, in Piemonte, un uomo ha speronato l'auto dell'ex moglie dopo averla aspettata all'uscita del lavoro, quindi lei è fuggita a piedi, lui l'ha inseguita, coltellata, ferendola molto gravemente. L'uomo, che aveva già ricevuto una diffida ad avvicinarsi, è stato fermato dalle forze dell'ordine, la donna in ospedale in gravissime condizioni. E poche ore dopo, un uomo di 64 anni a Pinerolo, sempre in Piemonte, ha ucciso la moglie di 52 anni a coltellate e poi ha chiamato i carabinieri. E proprio oggi è stato presentato il rapporto Istat sulla sicurezza delle donne in Italia. Tra i dati principali emerge che 8,3 milioni di donne sono sottomesse psicologicamente ai loro partner, che una su tre ha subito varie forme di violenza, che una su cinque in Italia ha subito violenza sessuale. E torneremo a parlarne tra poco. Intanto passiamo all'economia. La manovra economica di primavera da 3,4 miliardi non conterrà solo una correzione dei conti, ma anche un incentivo allo sviluppo, in particolare per le zone del centro Italia colpite dal terremoto. Oltre 1 miliardo l'anno per i prossimi 3 anni. Il premier Gentiloni annuncia nuovi fondi per le regioni colpite dal terremoto, risorse che arriveranno con la manovra di aprile, un provvedimento che non si limiterà, dice il premier, alla correzione dei conti, ma conterrà anche misure per la crescita. Una operazione che risponde alla necessità di una correzione dello 0,2% che ben conoscete, e contemporaneamente una operazione che conterrà misure che accompagnano la crescita e gli investimenti. I soldi serviranno a ricostruire paesi distrutti, sostenere il reddito di famiglie e imprese attraverso zone franche fiscali, a mettere in sicurezza gli edifici, anche quelli non compresi nelle zone cosiddette del cratere del sisma. Stiamo uscendo dalla fase acuta dell'emergenza, dice il premier, mentre per il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani è stata avviata una nuova fase verso la normalità. Plaudono le regioni interessate e il governatore dell'Umbria, Catiuscia Marini. Ha annunciato 1 miliardo di euro per ogni anno e a valere in maniera pluriennale. Questa è la garanzia anche della certezza delle risorse per la ricostruzione. Alessandra Scaipisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E ci sono buone notizie per l'economia italiana che arrivano dal settore mobili. Il mercato è in netta ripresa. Una fotografia del settore è stata fatta in vista del Salone del Mobile di Milano, una manifestazione di riferimento a livello internazionale. Vale 20 miliardi di fatturato annuo e dopo alcuni anni di difficoltà è in netta crescita. Parliamo del mercato del mobile made in Italy. Va bene come sempre l'export, pari alla metà del fatturato, che nel 2016 è cresciuto dell'1,6%. Ma la buona notizia arriva soprattutto dal fronte interno, cresciuto del 3,1% dopo un periodo di contrazione. Il merito va alle detrazioni fiscali del bonus mobili, come spiega Emanuele Orsini, neo presidente di Federlegno. Abbiamo registrato negli ultimi 2 anni e mezzo che ha generato circa 3 miliardi di fatturato, mettendo in salvaguardia circa 10.000 posti di lavoro. Già nel 2017, cercando di fare una proiezione molto prudenziale, genererà circa 1,2 miliardi di fatturato. L'obiettivo dei produttori è dunque rendere il bonus mobile un provvedimento strutturale. Quanto all'export, i mobili italiani sono molto gettonati in Francia. Seguono a pari merito Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Interessante la Cina. Se fino a qualche anno fa era lo spauracchio per la concorrenza sleale, ora è un nuovo mercato dove l'export italiano nel 2016 è cresciuto del 22%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da un settore che va così bene, positivo come il mobile, all'altro, la moda. Proprio oggi è stata presentata Confindustria Moda, che diventa la seconda associazione manifatturiera del sistema confindustriale. Un'unica realtà in cui confluiscono tutte le sigle della filiera italiana della moda. Si chiama Confindustria Moda e rappresenta oltre 67.000 aziende del Made in Italy che generano un fatturato di 88 miliardi di euro. Dopo 2 anni di lavoro, la Maxi Federazione della Moda ha ricevuto il suo battesimo ufficiale, svelando il nome e la governance. Raccoglie SMI, Sistema Moda Italia, AIMPES, l'Associazione Italiana Manifatturieri, Pellettieri e Succedanei, insieme all'Associazione Italiana per Pellicceria, ma anche Assocalzaturifici, Anfao e Federorafi. Una forza unica in un settore che ha resistito alla crisi, sottolinea il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Ricordiamolo che la moda e l'agroalimentare sono stati 2 settori di punta che, nonostante la crisi, non hanno arretrato. Confindustria Moda peserà di più, dice il presidente Claudio Marenzi. Noi con i nostri 52 miliardi eravamo la 7ª, 8ª associazione manifatturiera, insieme gli 88 miliardi, che diventano insomma 90 miliardi, diventiamo la 2ª. E sarà volano per nuove opportunità di lavoro e crescita dell'economia. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E oggi il presidente del Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, ha tenuto un'audizione alla Camera sulla situazione del gruppo editoriale, confermato un aumento di capitale da 50 a 70 milioni di euro, la riduzione dei costi, poi ha detto Confindustria potrebbe anche scendere nella quota detenuta oggi pari al 67,5%, che poi, ha detto Fossa, ha parlato di una possibile azione di responsabilità verso i precedenti amministratori. Lo stanno appurando la magistratura da una parte, ma noi abbiamo iniziato un audit attraverso la società PricewaterhouseCoopers per verificare se ci sono dal punto di vista civile la necessità di intervenire nei confronti degli amministratori precedenti. Anche perché io ho una mia storia personale, a volte positiva, a volte negativa, ma non sono così pazzo, pur essendo pazzo di essermi preso questa patata, non sono così pazzo da rispondere per gli altri, né io, né l'amministratore delegato, né i consiglieri. La politica italiana, la Lega Nord, chiede le dimissioni del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che nel frattempo tenta, come avete sentito all'inizio, di correggere a proposito delle sue affermazioni su calcetto e curriculum. Pallone gonfiato, deve andare lui a giocare a calcetto, non i nostri giovani, dimissioni, la Lega protesta in aula al Senato contro le affermazioni del ministro del welfare Giuliano Poletti, che aveva detto contano più le relazioni sociali come il calcetto che mandare un curriculum per trovare lavoro. Un'affermazione che ha scatenato le ire del Carroccio. Il capogruppo Gianmarco Centinaio si presenta in aula con un piccolo pallone blu. Il ministro Poletti, per non essere un pallone gonfiato, se posso trarre la palla, perché non è la sede per giocare a calcetto questa. Il ministro intanto fa retromarcia e dice di essere stato frainteso. Vale molto il sapere e vale molto l'essere, vale molto studiare, imparare, conoscere e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività. Il calcetto è, se volete, la metafora della relazione sociale. Ma le critiche arrivano anche dal PD. Per il candidato alla segreteria Andrea Orlando, Poletti è stato fraintendibile. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in Senato Augusto Minzolini di Forza Italia ha presentato la lettera di dimissioni dopo essere stato salvato, vi ricordate, nei giorni scorsi dalla decadenza che doveva esserci in virtù della legge Severino, ma il Senato ha votato contro. Adesso sarà lo stesso Senato a dover decidere quando votare, se respingere queste dimissioni. L'ex direttore del TG1, senatore di Forza Italia, è condannato, lo ricordo, in via definitiva a 2 anni e 6 mesi per peculato. Ne torneremo a parlare, così come torneremo a parlare della bufera su Poletti e del caso Genova, cioè l'ex candidata dei 5 Stelle Cassimatis, silurata da Grillo, che ha deciso di rivolgersi al Tribunale Civile. E poi la Gran Bretagna è uno dei momenti più importanti nella recente storia del Regno Unito, ha detto la prima ministra britannica Theresa May, così ha definito l'annuncio formale che farà domani sull'avvio della Brexit e delle trattative con Bruxelles. Il fine, ha aggiunto la prima ministra, è quello di creare una relazione profonda e speciale con l'Europa. Intanto il Parlamento scozzese ha votato in maggioranza a favore della richiesta di un referendum bis sulla secessione da Londra in risposta alla Brexit, cioè sapete che la Scozia vuole in realtà rimanere in Unione Europea e per farlo dovrebbe staccarsi dalla Gran Bretagna. Restiamo sulle notizie dall'estero. Stati Uniti, Donald Trump, che ha firmato un decreto per rivedere le norme per la lotta ai cambiamenti climatici, ha detto che con me si mette fine alla guerra al carbone, rilanciare l'industria del carbone per aumentare l'indipendenza energetica degli Stati Uniti e ricreare migliaia di posti di lavoro persi nelle miniere, dice, con le restrizioni introdotte da Barack Obama. E per quanto riguarda l'immigrazione, i paesi del gruppo Visegrad riuniti a Varsavia e capeggiati dalla Polonia per un mini vertice sui migranti dicono no al ricatto dell'Unione Europea che lega la politica migratoria a quella finanziaria, riducendo gli aiuti a chi non accoglie i profughi. Nel frattempo il cancelliere austriaco Kern intanto annuncia che interpellerà Bruxelles chiedendo comprensione sull'intenzione dell'Austria di disapplicare il piano di ricollocamento degli immigrati. Immediata la replica della Commissione europea, che dice nessun paese può ritirarsi unilateralmente. E poi di nuovo in Italia con l'omicidio di Alatri, 2 fratelli sono stati fermati per l'omicidio di Emanuele Morganti, 20enne morto dopo 2 giorni di agonia in seguito al pestaggio. I 2 sono stati rintracciati a casa di un parente a Roma. E poi ne parleremo, torneremo sui sviluppi dell'inchiesta. Adesso invece occupiamoci della rivolta contro il gasdotto, proteste e cariche della polizia sui manifestanti davanti al cantiere del gasdotto cosiddetto TAP in Salento, la protesta contro la decisione di sradicare 200 ulivi sul tracciato del microtunnel dell'impianto ha avuto momenti di tensione con le forze dell'ordine, vero Domenico Palmiotti dalla Puglia? Sì, buonasera Roberto, è stata una giornata molto dura, piena di tensione. Alla fine il bilancio sono 28 ulivi che sono stati espiantati temporaneamente, perché si tratta di un espianto temporaneo con ricollocazione in un altro sito. Domani si riprende, si dovrebbe riprendere, sono già pronti, fanno sapere da tappa, altri 4 camion con altri ulivi espiantati, ma la giornata di oggi è stata veramente difficile e pesante. Si sono sfiorati spesso gli scontri fra polizia e manifestanti, ci sono stati anche alcuni contusi e feriti lievi. La polizia sin da questa mattina ha cinturato l'area del cantiere TAP per consentire appunto che l'espianto, dopo il via libera del Consiglio di Stato di ieri e del Ministero dell'Ambiente di questa mattina, per consentire appunto che l'espianto proseguisse. Ma i manifestanti, no TAP, alla cui protesta si sono anche aggiunti dei sindaci della zona, ha tenuto duro per diverse ore. Soltanto in tarda mattinata la polizia, con forza e con fatica, è riuscita a creare un varco ed ha permesso il transito dei primi 5 camion. Altri camion sono poi transitati nel pomeriggio, ma il clima è stato sempre di assedio, è stato sempre di scontro e molto molto duro. E in questo clima si vedrà appunto che cosa succederà domani e come e in che modo proseguirà l'espianto degli ulivi. Non si placa infine la battaglia legale, perché il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ammette di aver incassato una sconfitta con il Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso della Regione Puglia contro l'autorizzazione unica, ma annuncia Emiliano già una nuova iniziativa. Impugnerà legalmente, presumibilmente al TAR, l'ultimo via libera del Ministero dell'Ambiente. Gli ribatte il ministro Galletti, che dice è padronissimo di fare questa scelta Emiliano, ma sappia che TAP è autorizzato e che le procedure sono in regola e vengono tutte rispettate senza alcun danno per l'ambiente. Grazie Domenico Palmiotti dalla Puglia. Ciao Domenico, e adesso questa notizia: il Comitato per i diritti umani dell'ONU, nelle sue osservazioni sulla situazione italiana, si dice preoccupato, il Comitato per i diritti umani dell'ONU, per le difficoltà di accesso agli aborti legali a causa del numero di medici che si rifiutano di praticare l'interruzione di gravidanza per motivi di coscienza. Preoccupazione espressa anche per la distribuzione in tutto il paese dei medici obiettori e il numero significativo di aborti clandestini, dice il Comitato per i diritti umani dell'ONU. Lo Stato, sottolinea ancora, dovrebbe adottare misure necessarie per garantire il libero e tempestivo accesso ai servizi di aborto legale con un sistema di riferimento valido. Per chiudere questa prima parte c'è il nostro Dario Ricci che ci aggiorna su Olanda-Italia. Sì, cara Roberta, siamo alla mezz'ora ad Amsterdam in questa amichevole di lusso per gli azzurri di Ventura. Partita divertente, risultato sull'1-1. Finora tutto si decide in un minuto, perché olandesi in vantaggio al decimo per un autogol di Romagnoli, che deve alle spalle di Donnarumma un tocco di Proms. E poi un minuto dopo, appunto, è Eder con un destro, un bel diagonale destro dai 25 metri a siglare l'1-1. Calciando in rete dopo una respinta della difesa olandese. Olandesi che al 26esimo hanno anche colpito una traversa con un colpo di testa di Martins Indy, deviato dallo stesso Romagnoli, questa volta per fortuna non alle spalle di Donnarumma, ma almeno sulla traversa. Mezz'ora, 31esimo anzi, di gioco in questo istante, 1-1 ad Amsterdam finora tra Olanda e Italia. E vedremo dopo, grazie Dario Ricci. Intanto, prima di lasciarci e per poi cominciare a approfondire i vari temi con gli ospiti, una lettura di qualche vostro messaggio, di tanti che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Giuseppe scrive: ho detto a mio figlio, laurea, 2 master a Parigi, 2 anni di lavoro a Bruxelles, 1 anno in Africa per una multinazionale, oggi alla ricerca di lavoro in Italia, di iscriversi a un corso di calcetto. Potete chiedere al ministro quale consiglia, se riusciamo a parlare direttamente glielo chiederemo, altrimenti faremo arrivare in qualche modo la richiesta, anche se il presidente della Lega Calcio a 5 dice che non si dice calcetto, poi vi dico tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E mentre Roberta Giordano torna con voi, tornano subito le notizie prima di cominciare a approfondire certi temi in particolare, perché c'è un gol, Dario Ricci? Eh sì, davvero scoppiettante questa prima mezz'ora di gioco ad Amsterdam, perché l'Italia ora è in vantaggio al 31esimo. Leonardo Bonucci, bravissimo ad avventarsi su una rispinta del portiere dei tulipani Zet e a ribattere in rete dopo una deviazione sotto misura di un altro azzurro. Quindi Italia ora in vantaggio per 2-1, ricordiamo il tabellino rapidissimamente: al 10° minuto l'autogol di Romagnoli, all'11° immediato il pareggio di Eder e ora al 31esimo il vantaggio azzurro siglato dallo juventino Bonucci. Grazie Dario Ricci, le altre notizie ve le ricordo ora, le principali. La mattanza delle donne a distanza di poche ore a Vercelli, un uomo sperona l'auto dell'ex moglie, poi la insegue a piedi e la colpisce più volte con un coltello, lei è gravissima, e a Pinerolo un uomo di 64 anni accoltella la moglie cinquantenne uccidendola. E il rapporto dell'Istat presentato oggi parla di 8,3 milioni di donne in Italia sottomesse psicologicamente ai partner, una su tre ha subito vari tipi di violenze, una su cinque ha subito violenza sessuale. Brexit, domani l'annuncio ufficiale del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea con la prima ministra May che dice è un momento storico. Bufera sul ministro Poletti, ne parleremo tra pochissimo dopo la gaffa su lavoro e calcetto. E in Senato Augusto Minzolini di Forza Italia presenta la lettera di dimissioni dopo essere stato salvato nei giorni scorsi, ora è il Senato che dovrà decidere. Genova, l'ex candidata dei 5 Stelle silurata da Grillo si rivolge al Tribunale Civile. E poi l'omicidio di Alatri, fermati due fratelli per il massacro di Emanuele Morganti, una violenza lenta, dicono gli inquirenti. Puglia, scontri tra polizia e manifestanti a Melendugno per l'espianto di ulivi per il cantiere del gasdotto. Aborto, il Comitato per i diritti umani dell'ONU si dice preoccupato per le difficoltà in Italia di accesso agli aborti legali a causa del numero di medici obiettori. E poi per il calcio, lo avete sentito, Olanda-Italia per il momento 2-1 per l'Italia. Stati Uniti, Trump firma il decreto per eliminare le norme di Obama sul clima, dice con me finisce la guerra al carbone. Parliamo quindi dei casi politici delle ultime ore, il caso Minzolini, la gaffe, la nuova gaffe del ministro Poletti e l'ex candidata sindaca per i 5 Stelle a Genova, silurata da Beppe Grillo, che decide di adire alle vie legali. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara. Buonasera. Buonasera Barbara. Sempre la busta numero 1, numero 2, numero 3, vogliamo partire dal caso Minzolini? Vabbè, anche perché lo sbrighiamo in poco tempo. Ecco, in poco tempo. Allora, ha presentato questa mattina le sue dimissioni in una lettera al Senato, no? Ricordiamo che Minzolini è condannato in via definitiva a 2 anni e 6 mesi per peculato, cioè avrebbe usato in modo improprio la carta di credito della RAI quando era il direttore del TG1, avrebbe speso oltre 65.000 euro. Nei giorni scorsi il Senato ha votato per decidere la sua decadenza o meno in virtù della legge Severino, però il Senato l'ha salvato anche con alcuni voti del PD. Minzolini però ha detto io mi dimetterò comunque, e così oggi ha presentato questa lettera di dimissioni. Ora però il Senato che deve decidere ancora se accettarle o no queste dimissioni. Sì, è il Senato che deve decidere, come avviene spessissimo. L'aula del Senato, lo scrutinio avviene a voto segreto, ricordiamo agli ascoltatori, solitamente respinge le dimissioni dei senatori. E quindi insomma non possiamo dire quando Minzolini effettivamente uscirà da Palazzo Madama. Anzi, c'è chi già sostiene che insomma probabilmente, se non si farà tutta la legislatura, da questa parte finale di legislatura, probabilmente andrà parecchio in là. Vogliamo sentire un pezzettino dell'intervista della nostra Betta Fiorito a Minzolini oggi, sentiamo. Ho presentato la lettera di dimissioni e l'ho fatto perché di fatto lo avevo già detto esattamente 8 mesi fa, quando ci fu la riunione della giunta per l'autorizzazione a procedere. Io credo che la coerenza sia un elemento fondante della politica. Però adesso tutto spetta all'Aula, lei si potrebbe dimettere, però l'Aula respingere le dimissioni. Far più di questo non posso, posso suicidarmi, ma ci sto ancora pensando e penso che forse non valga la pena. Quello che a me interessa, se quando ci sarà la riunione, è ragionare sui rapporti che ci sono stati in questi anni tra politica e magistratura, ponendo una questione che, come è assolutamente sacrosanto che la magistratura abbia la sua autonomia dalla politica, è anche giusto il contrario. Allora Barbara, a proposito di magistratura, ti faccio proprio una breve risposta se puoi darla. Allora, qualcuno si poneva anche il problema, ma dicono che i magistrati, una volta che entrano in politica, poi non è opportuno che tornino a fare i magistrati. Giornalisti, secondo te? per me, anche i giornalisti, io su questo sono molto intransigente, cioè ritengo che tanto il magistrato quanto il giornalista dovrebbero, almeno nella forma, non essere di parte. Nel momento in cui si parteggia, si prende parte della politica, è evidente che il nostro giudizio è falsato. Per quanto una persona possa essere corretta, inevitabilmente il dubbio, se non il sospetto, che il mio articolo piuttosto che la mia sentenza sia ispirata da simpatie o meno politiche, c'è. E questo secondo me non dovrebbe accadere. Anche se, Barbara, diciamo, sono due mestieri diversi, no? Quello del magistrato che giudica, che può mandare in galera o meno, sanzionare, eccetera. Certo. Giornalista, diciamo che l'obiettività, l'imparzialità è un obiettivo, un ideale, è difficile poi esserlo fino in fondo, nessuno è completamente imparziale. Insomma, sì, però voglio dire, è evidente che sono diversi, che sono diverse le responsabilità, ci mancherebbe altro. Però sto parlando in linea di principio. In linea di principio, una volta che si è deciso di cambiare mestiere e di diventare un partigiano, colui che parteggia per una parte, secondo me poi chiunque dovrebbe esimersi dal tornare a rappresentare, che sia un giornalista o che sia un magistrato, un incarico che dovrebbe essere super partes, tu dici. Sì. Barbara, senti, invece sul caso della gaffe, della nuova gaffe del ministro Poletti, diciamo non è la prima, no? Cos'era? L'ultima era quella su, vabbè, i giovani che vogliono andarsene via, i cervelli che vogliono andare all'estero se ne vadano, potremmo fare a meno di loro, cose del genere, no? Aveva detto. In questo caso aveva detto ieri, però lui dice che è stato estrapolato in modo inopportuno da tutto un discorso questo passaggio, aveva detto più che i curricula sono importanti, meglio andare a fare una partita di calcetto, no? Per dire che è meglio così essere in mezzo alle persone, creare relazioni, eccetera, che è un po' al limite, no? In Italia sulla via della raccomandazione. Oggi però si è voluto correggere così, sentiamo. Due ore di confronto e dialogo con i ragazzi, dove avevamo parlato di alternanza scuola-lavoro, avevamo parlato del rapporto che quella scuola ha con il suo territorio e con le imprese, abbiamo parlato delle esperienze che questi ragazzi hanno fatto e del quanto valga, insieme al sapere, che è ovviamente essenziale, anche l'essere, cioè le cose che le persone fanno, il volontariato, il servizio civile, tutte le cose che si fanno. Vale molto il sapere e vale molto l'essere, vale molto studiare, imparare, conoscere, e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività, vivere con gli amici. Insomma, io incontro molte persone che si occupano di reclutamento di personale nelle imprese e tutti mi dicono: guarda, io cerco di capire chi sono questi ragazzi e poi chiedo loro cosa sanno. Quindi questi due elementi debbono essere tenuti insieme. Il calcetto è, se volete, la metafora della relazione sociale. Allora, sentiamo intanto la Lega, prima di tutti, con cartelli in aula oggi, ma anche poi Forza Italia, 5 Stelle, ne hanno chiesto la dimissione. Sentiamo sentiamo Centinaio della Lega. Chiediamo in modo ufficiale le dimissioni del ministro Poletti alla luce delle sue dichiarazioni che ha fatto ieri e che ha confermato oggi. Questo ministro un po' chiacchierone, Presidente, sembra che abbia voglia di andare a casa. Sembra che abbia voglia di mettersi in difficoltà, sembra che abbia voglia di mettervi in difficoltà, e non si può dire in un momento in cui abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile, anche grazie a voi e anche grazie alle vostre politiche scellerate, che anziché fare un curriculum bisogna andare a giocare a calcetto. Allora, intanto leggo una precisazione del presidente della divisione calcio a 5 della FIGC, Lega Dilettanti, Andrea Montemurro, che dice: purtroppo devo smentire il ministro Poletti, che ha detto che ai giovani che per trovare lavoro è meglio giocare a calcetto che inviare il proprio curriculum vitae. Se fosse vero, in Italia non esisterebbe la disoccupazione. Poi dice: in realtà non è calcio a 5, quindi non il calcetto, come ha detto il ministro Poletti erroneamente, è lo sport di squadra più praticato in Italia, dice, diffusissimo massimo tra giovani, donne e adulti, conta oltre 100.000 iscritti, milioni di praticanti amatoriali, ma questo purtroppo non dà lavoro. Allora, Barbara, prima di un tuo commento, leggo anche qualche messaggio degli ascoltatori tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Leo dice: Poletti ha fatto una metafora, possibile che in Italia si sia perso il senso dello humor? Con Bersani erano battute continue, non vi ricordate, ma nessuno ha chiesto le sue dimissioni. Poi un altro scrive: se invece di inalberarsi inutilmente la gente fosse più pratica, forse andremmo avanti. Non è un mistero che i curricula non vengano neanche guardati, magari frequentare gente invece di rimbambirsi con i social aiuterebbe a trovare lavoro. Poi Sergio dice: ragione Poletti, dove lavoro io si presentano stagisti di 20-22 anni per il colloquio accompagnati da mamma o papà che interloquiscono al posto dei loro bambocci. E poi molti altri messaggi. Poletti invece dice: Gianni è incompetente, secondo voi un ministro presentabile, ma per favore. Invece un altro messaggio dice: Poletti stai sereno, la formazione con cui giochi a calcetto al governo la conosciamo già. Insomma, vari messaggi. Qual è il tuo commento a proposito, Barbara? Il mio commento è che in questo caso io mi schiero con gli ascoltatori che difendono il ministro, ma lo dico un po' perché mi dà fastidio quando una persona... Tutti quanti si accaniscono, dice, la difendo sì, io. Sì, sì. Ma perché, secondo me, quello che dice Poletti, udite udite, non è così sbagliato. Nel senso che, per esempio, negli Stati Uniti, nei curriculum, viene data molta importanza alle attività esterne allo studio. È ovvio che le competenze sono la priorità. Però quelle sono altrettanto importanti le competenze che si acquisiscono all'esterno, appunto, di quelle proprio. Ma lui secondo te parlava di competenze che si acquisiscono sì, stando in mezzo, cioè, alle cose, oppure di conoscere le persone, no, che no, quindi poi ti non avrebbe dicono... parlato del, sinceramente non avrebbe parlato del calcetto, insomma, adesso appunto, come ci ricordava la federazione, è uno sport molto praticato. Calcio a 5, no, dice, calcio io a credo, 5. Io credo che il senso di quel ragionamento fosse, non è che si rimanere solo sui libri non basta, bisogna anche uscire fuori e vedere la realtà intorno a noi e partecipare a degli sport di squadra, come ad esempio il calcetto, aiuta molto. E devo dire che non è una, appunto, ripeto, non sono parole, secondo me, certo, dette da un ministro della Repubblica, ci aspetteremo qualcosa no, di più alto. Infatti. E su questo non c'è dubbio. Però se io prendo il ragionamento, non è così sbagliato, perché chiunque di noi abbia un'esperienza di lavoro abbastanza lunga sa bene che spesso delle persone anche estremamente competenti nella loro attività, che però ad esempio non sono in grado di fare gioco di squadra all'interno di un'azienda, spesso risultano meno efficienti, meno utili rispetto ad altre che magari di competenze ne hanno meno, ma sono in grado di lavorare con gli chiarissima altri. La tua linea difensiva, sei un'ottima avvocata, sai giocare a calcetto, io me la cavo piuttosto bene, devo dire, potremmo fare un incontro io e te. Senti, allora questo butta male per te. Per chiudere, Barbara Fiammeri, cosa pensi della vicenda dell'ex candidata dei 5 Stelle a Genova, Cassi Matis, che adesso ha l'intenzione di rivolgersi al Tribunale Civile perché era stata silurata da Grillo, il quale diceva nelle sue liste c'erano persone che avevano parlato male del Movimento 5 Stelle, quindi non insomma, l'ha fatta fuori. Allora, io le direi stai serena, nel senso che preoccupante, quando... stai serena. Perché quando in politica si arriva alle carte bollate, secondo me si è già perso, nel senso che sicuramente quello che ha fatto Grillo da un punto di vista, ripeto, proprio politico è sbagliato, nel senso che è un boomerang, secondo il mio pensiero, da parte del leader del Movimento 5 Stelle, ma ritengo un altrettanto boomerang quello della Cassi Matis. Se lei si sente di poter rappresentare le istanze dei genovesi, si presenti con una sua lista, cioè si metta in competizione con il Movimento 5 Stelle e con le altre forze politiche, non si va dal TAR per chiedere cioè per chiedere un diritto politico. Mi sembra veramente un'assurdità. Cioè, siamo in democrazia, si presenti, e se avrà più voti dei 5 Stelle vuol dire che i genovesi hanno dato retta a lei e non a Grillo. Barbara, tu intanto allenati al calcetto, ci sentiamo presto. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi. Ciao buonasera. Barbara. Ciao. Allora, noi ci sentiamo dopo, adesso abbiamo anche un po' sorriso, poi parleremo di cose molto serie e anzi direi drammatiche, di questo scandalo nel nostro paese così civile, tra le maggiori potenze del mondo e con ogni pochi giorni un femminicidio e comunque un tasso di violenza sulle donne molto molto alto. Ne parleremo tra breve, molti vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, vi leggerò tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, ormai siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato di diversi temi, in particolare di legati alla politica. Adesso un tema che in buona parte è legato purtroppo alla politica, alle istituzioni, che probabilmente non fanno e non hanno mai fatto troppo su questo tema. Parleremo dei femminicidi. Oggi sono stati ancora un femminicidio e un tentato femminicidio, ma ce ne occuperemo tra pochissimo. Voi continuate, molti vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Intanto appunto le notizie più importanti sono per l'appunto la mattanza delle donne, perché a distanza di poche ore, e tra l'altro tutte e due questi episodi in Piemonte, uno a Vercelli con un uomo che ha speronato l'auto dell'ex moglie e poi l'ha inseguita a piedi e l'ha colpita più volte con un coltello, lei è gravissima, e a Pinerolo un uomo di 64 anni che ha accoltellato la moglie cinquantenne uccidendola. Proprio oggi è stato presentato il rapporto Istat sulla sicurezza delle donne in Italia. E poi la Brexit, domani ci sarà l'annuncio ufficiale del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea con la prima ministra May che dice è un fatto storico. La bufera sul ministro Poletti, di cui abbiamo appena parlato, dopo la gaffa sul lavoro e calcetto, le opposizioni ne chiedono le dimissioni e in Senato Augusto Minzolini di Forza Italia ha presentato la sua lettera di dimissioni dopo essere stato salvato nei giorni scorsi dal Senato, Senato che ancora una volta dovrà decidere se accettarle o no. E poi a Genova l'ex candidata dei 5 Stelle, silurata da Grillo, intende rivolgersi al Tribunale Civile. L'omicidio di Alatri, ne parleremo più tardi, fermati due fratelli per il massacro del ventenne Emanuele Morganti vicino Frosinone. In Puglia scontri tra polizia e manifestanti a Melendugno per l'espianto di ulivi al cantiere del gasdotto. Aborto, il Comitato per i diritti umani dell'ONU si dice preoccupato per le difficoltà in Italia di accesso agli aborti legali a causa del numero di medici obiettori. E per il calcio prosegue la partita, l'amichevole Olanda-Italia, con l'Italia che conduce per 2-1. E purtroppo dobbiamo tornare a parlare ancora della violenza maschile contro le donne, che è ormai diventata talmente una routine che nella maggior parte dei casi media o proprio non ne parlano o spesso le relegano proprio agli ultimi titoli, agli ultimi posti sui giornali o nei notiziari, a volte non ne parlano proprio. Oggi l'ennesimo caso di tentato femminicidio, la vittima lotta tra la vita e la morte in ospedale. L'uomo Maurizio Zangari a Borgo Vercelli in Piemonte ha speronato l'auto dell'ex moglie aspettandola fuori dal lavoro, poi lei è scappata a piedi, lui l'ha raggiunta e l'ha coltellata davanti a tutti, ferendola in modo molto grave. Adesso lei è in condizioni gravissime in ospedale, lui è stato arrestato. Secondo le prime informazioni, la coppia, che ha due figli, si era separata, lei era tornata a vivere con i genitori a Borgo Vercelli dopo le continue minacce di lui. Lui invece è descritto come un uomo violento, ossessionato da quella donna che lo aveva lasciato e che lui voleva che tornasse con lui. Appunto, a dicembre la donna era andata in ospedale per piccoli lividi e percosse, però siccome la prognosi era inferiore ai 21 giorni, la denuncia non è scattata d'ufficio automaticamente. A chiedere l'ordinanza restrittiva era stata invece la famiglia, e per questo a carico del marito c'era una diffida che lo obbligava a non avvicinarsi né a lei né ai figli, un divieto che i residenti di Borgo Vercelli conoscevano bene la situazione, che insomma per lei quest'uomo era un grosso problema. Pensate che l'ex marito oggi, prima dell'aggressione, su Facebook aveva scritto: donne di merda, vi ricordo una cosa sola, toglietemi il figlio e vi sfracello. E poi poche ore dopo, poco fa, praticamente 3 ore fa, un altro femminicidio, 2 ore fa a Pinerolo, sempre in Piemonte, un uomo di 64 anni che ha accoltellato la moglie di 50 anni, uccidendola, e poi ha chiamato i carabinieri. E proprio oggi è stato presentato il rapporto Istat sulla sicurezza delle donne in Italia. Ne parliamo con la professoressa Anna Boldri, che è criminologa, psicologa, docente di psicologia sociale alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Professoressa Boldri, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Insomma, ogni tanto ci ritroviamo, ogni poco. Sì. E che cosa bisogna fare, professoressa, per costruire davvero una società che sia fatta di donne e di uomini alla pari? Per esempio, io le dico, arrivano molti messaggi, ci sono uomini splendidi come Francesco da Udine, che dice: incitare le donne a denunciare le violenze e gli abusi senza poi proteggerle sta diventando una responsabilità molto grave per la politica. Poi c'è un altro uomo, che Doriano, che scrive: femminicidio, uomini, il nostro silenzio è complicità. E poi c'è qualcun altro, a parte quelli che istigano la violenza, qualcun altro che insiste sul fatto, si preoccupa solo di dire basta dire femminicidio, esiste l'omicidio, negando praticamente che esista veramente un fenomeno terribile come quello della violenza maschile contro le donne e delle donne uccise ogni pochi giorni dagli uomini. Come bisogna fare per uscire da questa situazione? Guardate, voi avete appunto parlato proprio lì all'Istat, oggi stati presentati i dati sia dell'indagine appunto del 2016 e anche vari dati sulla violenza contro le donne, e dove abbiamo appunto parlato di tutte le varie sfaccettature della violenza e anche dell'omicidio. È un dato fresco che vi porto, che spesso anche dai mass media sembra quindi a volte che è aumentato l'omicidio. E invece il problema è questo, che negli ultimi 30 anni sono diminuiti in Italia gli omicidi in generale. Comunque sempre più la frequenza di omicidi confronti degli uomini è maggiore, quegli omicidi ordinari, chiamiamoli ordinari, passatemi il termine. Che cosa non è diminuito è l'omicidio contro le donne da parte dei partner. Il motivo che invece per cui è indispensabile usare un termine specifico, al di là del fatto che il codice penale ovviamente configura come omicidio, adesso è anche previsto come aggravante il fatto stesso che sia una relazione intima alla base anche di questi omicidi, è che malgrado le varie politiche sociali, istituzionali, dei mass media, di prevenzione, che avrebbero dovuto portare, se non ad azzerare, a diminuire questi reati gravissimi, è rimasto costante. Come se, malgrado sono diminuiti gli omicidi da dopo gli anni di terrorismo, del dopoguerra, cioè c'è stato un declino, omicidi in generale, omicidi contro le donne che permangono e sono la maggior parte, quasi tutti, il 70% dei casi commessi all'interno delle mura domestiche, rimane un gioco duro nella nostra società. Perché? Noi possiamo invocare il fatto che uno era violento, il fatto che questo c'era precedenti penali, però troviamo anche quello che era assolutamente ora parliamo di femminicidio, però ieri c'è stato un altro fatto altrettanto grave e che ha per certi aspetti una stessa matrice di quello che ammazza i due figli e fa l'annichilatore familiare, no? Che, il caso di Trento. Il caso di Trento. Sono tutte tragedie, ma tragedie purtroppo che chi le commette, al di là del caso specifico, i casi singoli, sono commessi da persone che usano la violenza e l'eliminazione dell'altro quando l'altro mi dà fastidio, quando l'altro, in questo caso la donna, assume un ruolo e un potere che io non accetto, un potere nel senso di autonomia, negoziazione, di autonomia, di individualità, di scelta. E questo purtroppo culturalmente, storicamente, dal nord al sud, dall'Italia alla Norvegia, è un qualcosa che è radicato nella cultura, che è una cultura che noi da secoli ci portiamo dietro, essere misogina. Cantavano le canzoni, non c'era uomo che non c'era uno scheletro nell'armadio per cui aveva ucciso una donna, ma era assolutamente una cosa normale. Inutile ricordare che il delitto d'onore fino al 1981 c'era. Fino all'81 ricordiamo il delitto d'onore, come dice lei, gli uomini erano in qualche modo giustificati, c'erano delle attenuanti se facevano fuori una donna. Da 7 anni, il reato, per cui se tu ammazzavi la moglie fetifraga, sostanzialmente veniva data una pena irrisoria. La gravità del fatto si chiamava delitto d'onore fino all'81, ricordiamo, è rimasto l'altro ieri praticamente. E il problema è che seppur è stato derubricato il nostro codice penale, il problema è che quando noi spesso andiamo a leggere le sentenze o andiamo a vedere che anche l'autorità giudiziaria, non voglio generalizzare ma questi sono fatti importanti da dire, non riconosce le aggravanti quei casi, per esempio, dove c'erano stati precedenti episodi di violenza, precedenti denunce, questo significa non riconoscere che questi reati sono gravi tanto quanto altri omicidi, perché poi alla fine sono prevalenti gli attenuanti e l'aggravante. Allora siamo di fronte a diciamo così, pene che sono, non dico irrisorie, ma insomma, ma sicuramente non dei deterrenti. Anche se purtroppo è anche vero da dire che nel almeno 30% dei casi questi omicidi si suicidano e quindi risolvono così il problema, sfuggendo anche a quello che è far fronte alle conseguenze del proprio comportamento, primo. Secondo, si costituiscono e quindi beneficiano di quelli che sono i riti abbreviati e di fatto appare anche alla società che in fondo ammazzare la moglie è, ecco, com'era prima dell'81 rispetto al delitto di onore. Infatti, eliminato dal codice penale, ma è rimasto nella mentalità maschile e maschilista. Nella mentalità, perché io sfido molte persone, quando sentono che la donna è stata inseguita, tamponata, eccetera, eccetera, non si sia qualcuno domandato, certo che lei che non gli fa vedere i figli, io ho stessa su Facebook, la mia pagina ufficiale, comunque quando io commento di questi fatti, episodi così, c'è sempre il furbo di turno che dice: ah, finché voi donne non la smettete di toglierci i figli, no? Cioè, ecco, questa cattiveria che hanno alcuni uomini, io voglio assolutamente sottolineare, la maggior parte dei uomini intesi come genere maschile sono persone che come noi riconoscono che la violenza e l'omicidio contro le donne è un fallimento della società, è un fallimento degli uomini, prima delle di tutto donne degli uomini, e delle istituzioni tutte, perché nessuno è orgoglioso di queste cose. Tuttavia dietro le mura domestiche, nelle relazioni personali, ecco, io dico, sono anche grandi indicatori di debolezza, perché se la violenza è lo strumento che tu hai a disposizione per manifestare i tuoi sensi di diritti violati, la tua insoddisfazione, vuol dire che sei un omuncolo più che un uomo. Professoressa Boldri, purtroppo ci dobbiamo lasciare perché staremo ad ascoltarla per ore, ma purtroppo avremo occasione di risentirci, purtroppo, visto che il trend è quello che è, rischia di diventare davvero una routine anche proprio nella mentalità, nell'opinione pubblica. Grazie professoressa Boldri, grazie, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Viabilità. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie più importanti, l'avete sentito, un tentato femminicidio e un femminicidio oggi in Piemonte, e poi la bufera sul ministro Poletti dopo la gaffa sul lavoro e Calcetto e l'omicidio dell'Atri, di cui parliamo adesso con Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Per quanto riguarda gli sviluppi dell'inchiesta, sono stati arrestati due fratelli oggi, no? Mi pare che gli indagati siano complessivamente sette in questa vicenda del ventenne ucciso, massacrato di botte ad Alatri vicino Frosinone. Sì, oggi ci sono stati i primi due fermi, due fratellastri, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, 26 e 19 anni, però gli indagati sono nel complesso 7 ed è un'inchiesta ancora tutto da chiarire nei suoi aspetti, nei suoi contorni. Quello che già si è stato possibile ricostruire era quello che è avvenuto poco prima della morte, dei colpi che hanno portato poi alla morte di Emanuele, cioè i due fermati oggi sarebbero, secondo l'accusa, i responsabili proprio dei colpi fatali, cioè di quei colpi alla testa che hanno provocato la morte della ventenne. Due che, a detta del procuratore, sono vicini ad ambienti della delinquenza, ma che soprattutto si sarebbero, diciamo, comportati in questo modo anche per affermare una sorta di personale, diciamo, supremazia e controllo del territorio. Non stiamo parlando di criminalità organizzata, ma stiamo parlando di quella che molti abitanti della zona definiscono come il comportamento di un gruppo di bulli aggravati da mix di alcol e droghe, che si sentono padroni e che quindi come volessero vendicare una sorta di offesa subita. Tutto parte all'inizio di questo locale, l'Arci Miro, con una lite per il pagamento di una bibita. A quel punto il ragazzo Emanuele viene portato fuori fuori dal locale, dai buttafuori, il cui luogo, il cui ruolo ha specificato il procuratore dovrà essere approfondito, e a quel punto comincia il suo calvario, perché viene più volte pestato da persone diverse i cui ruoli ora vengono ricostruiti, fino al colpo di grazia appunto dei due fratelli. Tutto questo sta avvenendo anche in un clima da una parte di omertà, perché non sono poche le persone collaborando e le persone che sono state interrogate anche come teste danno informazioni parziali, ma anche in un clima denunciato di violenza reciproca, nel senso che i familiari di uno dei fermati, di Paolo, hanno raccontato di essere dovuti essere evacuare, di essere dovuti andare a Roma perché un'auto era stata bruciata e avevano ricevuto delle minacce. Insomma, c'è un clima così complesso che di tensione forte e di anche paura e silenzi che il sindaco spera di poter ricompattare nella fiaccolata che domani sera ci sarà in ricordo del giovane, rinnovando l'appello ad una collaborazione di chissà. E domani seguiremo questa fiaccolata. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Adesso invece Dario Ricci ci dice che l'Italia è sempre in vantaggio di 2-1 in questa amichevole con l'Olanda? Sì, proprio così Roberta, siamo al 49esimo, iniziato da poco appunto il secondo tempo, in Italia sempre avanti per 2-1, lo ricordiamo, padrone di casa in vantaggio al decimo a causa dell'autogol di Romagnoli, ma dopo neppure un minuto ci ha pensato Eder con un bel diagonale di destro dai 25 metri a battere Zut e a ristabilire la parità. E poi al 31esimo, sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo, bravo Zut a respingere il colpo di testa di Parolo, ma sulla respinta si avventa Bonucci che ribatte in gol praticamente da due passi. Quindi Italia avanti per 2-1. Da segnalare l'infortunio di Daniele De Rossi, che proprio questa sera festeggiava le 112 presenze in nazionale raggiungendo Dino Zoff. Al 36esimo ha subito una brutta botta, è uscito, speriamo solo per precauzione, al suo posto l'esordio di Gagliardini. Grazie Dario Ricci, a tra poco alle 22.